La famiglia, i diritti umani e la trans del dominante. Taylor, Flexner, Shorter, Harry, DeMoss, Scheck, Agis rappresentano una nuova generazione di storici che studiano la storia della famiglia e del sesso. Attraverso un esame minuzioso e paziente di documenti di corte, di registri di nascite e matrimoni, di diari, lettere e altri documenti pubblici e privati, spesso materiali nascosti nelle soffitte e altri oscuri luoghi dimenticati da gente comune piuttosto che da sovrani, nobili e altri personaggi importanti, per la prima volta questi studiosi vanno ricostruendo una storia dei rapporti intimi, che spero verrà un giorno aggiunta agli insegnamenti sul nostro passato. Lo affermo per un certo numero di motivi. Il primo è che tali informazioni sono importanti in sé, in quanto ci offrono un quadro molto più accurato e ricco rispetto a quello che troviamo nei testi di storia, del modo in cui davvero le persone vivevano la loro esistenza. Ma il motivo principale è che sono fondamentali per una comprensione del modo in cui si è conservato un sistema repressivo e disumano, e fatto ancora più importante del modo in cui può essere cambiato. Il passaggio nella preistoria da una direzione verso la partnership a quella verso la dominanza comportò una basilare ristrutturazione della famiglia. Se vogliamo riuscire nel tentativo di ribaltare quel cambiamento, dobbiamo raggiungere una comprensione molto più chiara e profonda del perché la costruzione sociale della famiglia e di altri rapporti intimi è un fattore essenziale nella costruzione di tutti i nostri rapporti sociali. Infatti, indubbiamente, il modo in cui si insegna a considerare e a vivere i rapporti più intimi è un fattore di primaria importanza nella costruzione sociale di tutte le nostre relazioni. Per la verità, come gli psicologi hanno ormai ampiamente documentato, il modo in cui vediamo noi stessi e le nostre relazioni con gli altri non è primariamente modellato nella cosiddetta sfera pubblica della politica e dell'economia. Sicuramente la politica e l'economia ne incanalano la formazione e inoltre esiste un'interazione costante tra la sfera pubblica e la privata, entrambe socialmente costruite per soddisfare le richieste di un particolare sistema sociale. Ma in ultima analisi, il modo in cui vediamo noi medesimi in rapporto agli altri e al mondo è ampiamente modellato nella cosiddetta sfera privata della famiglia e degli altri rapporti intimi. È qui che vengono inizialmente acquisiti quei modelli del pensare, del sentire e del relazionarsi che ci diventano poi abituali. È attraverso i nostri rapporti intimi, rapporti che comportano il contatto fisico diretto, tattile, che queste abitudini si radicano non soltanto nella mente, ma anche nel corpo, nei modelli muscolari e neurali. Ed è sempre attraverso queste relazioni che tali abitudini quotidianamente si rafforzano. In parole povere, è attraverso le nostre relazioni intime, specie durante l'infanzia, quando siamo totalmente dipendenti dagli adulti per la sopravvivenza, che impariamo a rispettare i diritti umani altrui o ad accettare la violazione dei diritti umani perché così vanno le cose. Sebbene siano sempre esistiti i ribelli che consapevolmente rifiutano la crudeltà e l'ingiustizia in tutte le forme possibili, per lo più gli individui condizionati fin dall'infanzia ad accettare la violazione cronica dei diritti umani come un fatto normale non tendono a creare una società in cui i diritti umani non vengano regolarmente violati. E una delle ragioni principali di questo comportamento è connessa al meccanismo psicologico della rimozione, la repressione nell'inconscio, dettata dalla paura di autentiche necessità, percezioni ed esperienze umane, che rende possibile l'accettazione, persino l'idealizzazione, di relazioni abusive e violente tra i dominati come tra i dominanti. Come sottolinea lo psicostorico Joe Berchtold, quel che accade alla psiche di un bambino oggetto di violenza è simile a quanto accade nella trance ipnotica. Nella trance ipnotica gli individui sono talmente influenzati dagli altrui suggerimenti, o più precisamente dagli altrui ordini su che cosa pensare, sentire e fare, da sopprimere le proprie percezioni, i propri sentimenti e perfino la propria volontà. Ma nel caso di un'infanzia sottoposta a cronica violenza, questa sostituzione della propria con l'altrui visione della realtà diventa abituale. Persino il dolore e l'offesa per tanta ingiustizia si fanno gradualmente irreali, repressi nei recessi più profondi dell'inconscio, ovvero, come richiesto per mantenere il sistema della dominanza, legittimati, perché è così che le cose devono andare. A motivo di ciò, Berchtold afferma che il vero progresso può darsi solamente quando le persone cominciano a risvegliarsi dalla trance sociale, prodotta in parte preponderante da quelle che cominciamo oggi a riconoscere come tradizioni di abuso sull'infanzia. Questo concetto della trance sociale è stato utilizzato da altri studiosi, per esempio da Willis Harman, che in Global Mind Change sottolinea che la culturazione per molti versi funziona come l'ipnosi e che quella che definisce trance culturale del conformismo ha lungamente condizionato le persone ad accettare, razionalizzare e, per riprendere il termine che usa, legittimare le istituzioni ingiuste, una leadership oppressiva nonché le immagini distorte e modelli di ruolo. Ma nella sua analisi psicostorica, Berchtold porta questo concetto dalla teoria alla pratica della vita quotidiana. Come Harman, Berchtold è convinto che una volta consapevoli di come siamo stati acculturati, possiamo imparare a trascendere il condizionamento. Ma il punto che più gli sta a cuore è che una storia segnata dalla sottomissione al predominio, alla manipolazione e allo sfruttamento può essere spiegata in termini psicostorici come l'estensione di quella predisposizione dal privato al politico. Dimostra con prova alla mano che gli individui cresciuti in famiglie in cui i castighi severi sono la norma sono molto più sensibili all'ipnosi e afferma che gli individui costretti nell'infanzia a sopprimere la loro realtà e ad accettare per contro la realtà imposta da quanti ne hanno l'autorità diventano da adulti estremamente soggetti al predominio, alla manipolazione e allo sfruttamento. Esistono prove schiaccianti che gli individui cresciuti in famiglie in cui rigide gerarchie e castighi penosi sono la norma apprendono a sopprimere la collera contro i genitori. Esistono prove schiaccianti che questa collera viene allora spesso deviata contro gruppi tradizionalmente diseredati, quali minoranze, bambini e donne. Inoltre, come documenta la psicologa Else Frankel Brunswick in uno studio classico in materia, The Authoritarian Personality, essendo stati condizionati con la violenza fin dall'infanzia a rinunciare alla propria volontà per soddisfare le richieste di temuti genitori autoritari, questi individui tendono a essere estremamente portati da adulti a mettere la loro volontà e la loro testa a disposizione di capi autoritari. In altri termini, mentre imparano a deviare la rabbia repressa contro coloro che percepiscono come deboli, imparano anche a sottomettersi al dominio autocratico o dell'uomo forte. Per giunta, essendo stati severamente puniti al minimo accenno di ribellione, anche per aver risposto ad un rimprovero ingiusto, gradualmente imparano anche a negare di fronte a se stessi che qualcosa non andava nel trattamento avuto nell'infanzia e a rigirarlo sui propri figli. Questo meccanismo psicologico della rimozione contribuisce a spiegare come mai, come documenta la psicanalista svizzera Alice Miller in For Your Own Good, Hidden Cruelty in Child Rearing and the Roots of Violence, generazione dopo generazione, genitori e figli troppo spesso hanno inconsciamente ripetuto quanto era stato fatto loro. Contribuisce a spiegare come mai tante persone hanno eseguito senza fiatare gli ordini superiori, per quanto brutali fossero. Contribuisce anche a spiegare come mai nel corso della storia e ancora oggi i governanti autocratici hanno goduto della lealtà di tanta gente, ottenendone persino, come in fondo si richiedeva in famiglia, l'amore. Desidero ancora una volta sottolineare che famiglie del genere non nascono nel vuoto. Al contrario, quanto accade nelle famiglie autoritarie, compreso il ricorso alla violenza per imporre l'autorità, è un addestramento per preparare le persone ad adattarsi perfettamente a un sistema sociale autoritario, in cui, per mantenere le gerarchie del predominio, abuso e violenza sono intessuti nella struttura sociale nel suo insieme. In altri termini, parliamo delle dinamiche psicosociali interattive che tradizionalmente hanno coinvolto non la famiglia soltanto, ma ogni istituzione sociale in un ininterrotto processo di socializzazione volto a insegnarci a considerare inevitabile la realtà del dominante. Inoltre, e anche questo è un punto critico, questa socializzazione non si limita a operare a livello mentale ed emotivo, opera infatti anche a livello fisico, a livello del corpo. E in effetti è proprio a livello corporeo che il condizionamento dell'infanzia è particolarmente efficace e duraturo, poiché lì il controllo autoritario è esperito nel modo più traumatico e lì si radicano inizialmente i modelli psicosomatici necessari per il mantenimento dei sistemi della dominanza. Un esempio impressionante delle modalità di funzionamento lo offre l'antropologo Fred Blake, con la sua analisi di come la fasciatura dei piedi praticata per molti secoli nella Cina pre-rivoluzionaria fece sì che le donne imparassero ad accettare, quale essenza medesima del loro senso di sé, la fasciatura penosissima non soltanto della loro mente, ma anche del loro corpo secondo la volontà altrui. Dall'età di circa 5 fino a 13 o 14 anni, i piedi delle bambine, non soltanto nelle classi dominanti, ma anche in ampi strati della popolazione, venivano efficacemente storpiati mediante una sorta di tortura che ne impediva la crescita e lo sviluppo naturali. Dal punto di vista della politica di genere, la fasciatura dei piedi era di enorme importanza simbolica e plasmava l'ambiente sociale e quindi i processi mentali, programmando donne e uomini a considerare come essenza della femminilità il conformarsi ai desideri maschili. Ma sul piano basilare delle cellule e dei percorsi neurali, la sua azione andava ancora oltre. Dalla prima infanzia, addestrava le donne a plasmare la mente e il corpo e quindi quanto immaginavano quale identità centrale o sé, secondo la necessità di coloro che avevano l'autorità, indipendentemente dal tormento che ciò comportava. Per giunta, e anche questo è un punto cruciale, in questo processo l'agente principale, sia sul piano simbolico in quanto illustrava qual era il suo posto nel sistema sociale, sia sul piano fisico in quanto così diventava il corpo voluto dal sistema sociale, era la madre medesima della donna. In altri termini, colei che pure aveva modellato il suo corpo e il suo senso dell'io per conformarsi a esigenze definite dall'esterno. Così come scrive Blake, le madri stesse non soltanto si modellavano in conformità a questa equazione femminilità-sacrificio dei propri desideri, ma costantemente ripetevano alle figlie che il sacrificio della loro capacità naturale di correre, danzare e persino camminare senza difficoltà, assieme al dolore lancinante di mesi e anche anni di dolorosissime piaghe, di fasciature indurite con pus disseccato e sangue raggrumato, di escrescenze di carne, era necessario se volevano trovare il marito giusto. Fatto ancora più importante, era sempre dalle madri che le ragazze apprendevano quella che Blake chiama la confluenza di cura nel dolore. E un giorno quelle ragazze avrebbero fatto la stessa cosa con le loro figlie, in nome dell'amore. Insegnava loro ad accettare che lo stesso tocco che associavano all'amore e al piacere poteva essere il tocco coercitivo che provocava quel dolore lancinante. Per giunta, mediante la fasciatura dei piedi e i castighi inflitti a chi si toglieva quelle fasciature dolorose, le ragazze imparavano a sopprimere non soltanto bisogni e desideri, ma anche i sentimenti di rabbia contro le madri e gli uomini che era stato loro detto così volevano per accettare di prenderle in moglie. Insomma, la fasciatura dei piedi imposta alle cinesi serviva a condizionarle affinché accettassero un ruolo in cui per tutta la vita automaticamente si sarebbero piegate agli uomini e ai desideri maschili, così come a quanti occupavano posizioni autorevoli. In questo senso, praticamente la lettera produsse, per allargare la definizione di Berchold, quella che potremmo chiamare la trance del dominante, che legittima come unica realtà vera, reale, cosmicamente fondata, un modo di pensare e di vivere sul modello della dominanza. Servì anche da veicolo affinché le donne, inconsciamente, deviassero almeno in parte rabbia e dolore, non indirizzandoli quindi contro coloro di cui appagavano i desideri crudeli, ma contro altre donne e specificamente le figlie, in un esempio sbalorditivo di come la rimozione può operare per mantenere la propria subordinazione. E perpetuò la replica di generazione in generazione di questa confluenza di cura e dolore nell'ottundere mente e corpo e un sistema in cui l'umano bisogno di amore è associato alla sottomissione al dolore. La spinta in avanti e la controspinta all'indietro. Come abbiamo visto in vari gradi, questa confluenza di cura e offesa è stata caratteristica dell'educazione infantile della dominanza, in quanto è un modo efficacissimo per condizionare le persone ad adattarsi a un sistema di gerarchie in ultima analisi sostenuto dalla paura del dolore. Talvolta, come nella Cina pre-rivoluzionaria, troviamo una più palese violenza contro le bambine. Tal'altra, come in certe regioni dell'Occidente ai giorni nostri, può darsi maggiore violenza contro i bambini. In taluni casi la confluenza di cura e offesa è innanzitutto psicologica, ma resta comunque anche fisica perché il corpo reagisce alla violenza psicologica nello sviluppo dei sistemi muscolare e neurale e questi, nelle società della dominanza servono da base per una costruzione sociale della sessualità che rafforza ulteriormente la convinzione che i rapporti umani sono inevitabilmente basati su gerarchie di predominio supportate dalla forza o dalla paura del dolore. Pertanto, se vogliamo passare a un'organizzazione sociale in cui l'umano bisogno di connessione amorevole non sia più distorto e pervertito mediante l'immediata associazione con la coercizione e il dolore, inflitto, accettato, dobbiamo interrompere il replicarsi di dinamiche psicosomatiche di questo genere. Dobbiamo bloccare la riproduzione di massa di quella mentalità culturalmente condizionata, o per riprendere la definizione di Marx, della falsa coscienza che fa apparire inevitabili abusi e violenze e nel contempo, attraverso le dinamiche psicologiche della vergogna e della rimozione, rende invisibili abusi e violenze. In breve, dobbiamo trovare modi che ci aiutino a risvegliarci da quella che è stata non soltanto in senso traslato, bensì sul serio, la trance sociale indotta dalla istituzionalizzazione del trauma che abbiamo preso in esame nella parte prima. A infonderci speranza è il fatto che proprio questo, tra avvii e improvvisi arresti, si è andato verificando negli ultimi 3 secoli, poiché i cambiamenti nelle relazioni tra donne e uomini e tra genitori e figli sono andati di pari passo con i cambiamenti politici ed economici, che quantomeno in talune regioni del mondo hanno gradualmente portato alla sostituzione di governi dispotici con governi più democratici. Mi soffermerò più oltre sulla parte importantissima che i cambiamenti verificatisi nelle relazioni di genere e quindi anche nei rapporti sessuali hanno avuto e continuano a svolgere nel processo di cambiamento della coscienza della cultura. Ma ora desidero insistere sui 3 principali cambiamenti verificatisi all'interno della famiglia negli ultimi 3 secoli, specie in Occidente, tenendo ben presente che questi cambiamenti non possono essere isolati dal loro più ampio contesto sociale, che comprende pure i cambiamenti non soltanto in politica e in economia, ma anche nelle relazioni di genere e nella costruzione sociale della sessualità. Certamente questi cambiamenti all'interno della famiglia erano già cominciati in Occidente sul finire del Medioevo, ma fu soltanto alla fine del XVIII secolo, come osserva lo storico della famiglia Karl Dögler, che cominciò a emergere la famiglia moderna. Era ancora una famiglia in cui il maschio sovrastava la femmina per usanza e per legge, ma era anche una famiglia in cui i vincoli di reciproco affetto tra marito e moglie, tra genitori e figli, venivano considerati via via più importanti dei vincoli fondati sull'autorità. Di conseguenza, il predominio degli uomini sulle donne, non soltanto in famiglia, ma nelle società, cominciò a essere messo in discussione da un crescente numero di persone, il che produsse a sua volta cambiamenti nei ruoli e nei rapporti di genere, che a loro volta influenzarono profondamente le relazioni genitori-figli. Degler osserva che con l'aumentare del rispetto per la donna, il ruolo della madre, e insieme un ideale parentale più geniale e amorevole, conquistava maggiore prominenza. Parimenti, mentre le giovani donne non erano più sottoposte a un rigido controllo parentale e potevano permettersi più contatti con i coetanei, l'amore romantico, e non più gli ordini dei genitori, fu sempre più accettato come debita base per il matrimonio. Sempre più contestato fu il ricorso all'abuso e alla violenza nell'educazione dei bambini. Perfino la doppia misura per la sessualità, insieme con il concetto che quella femminile deve essere rigidamente controllata dagli uomini, fu contestata apertamente, e su questo torneremo per discuterne più a fondo. Come tuttora possiamo vedere attorno a noi, questi tentativi di trasferire i rapporti intimi dalla dominanza alla partnership ebbero un successo solo parziale. In effetti, alla fine del XIX secolo si scatenò una potente controffensiva, nonostante la quale si fecero importanti conquiste per la democratizzazione della società e della famiglia occidentali. E a dispetto della continua tremenda resistenza incontrata lungo il percorso e delle conquiste annullate da periodiche sconfitte, nella seconda metà del XX secolo, contemporaneamente all'imporsi dei movimenti per i diritti civili, l'anticolonialismo e per la liberazione della donna e dei pacifisti, conobbe una nuova accelerazione la sfida ai rapporti basati sul predominio sia nella sfera privata sia in quella pubblica. Ovviamente molti altri fattori concorsero a favorire queste spinte, e in particolare gli sconvolgimenti economici e sociali prodotti dalla graduale sostituzione in Occidente della base economica agraria e rurale con una industriale urbana, assieme alla più diffusa alfabetizzazione e alla possibilità di procurarsi libri e testi. Inoltre, con il passaggio incipiente da un'economia primariamente basata sulla produzione a un'economia che gli economisti chiamano di servizio e informazione, Il ritmo del cambiamento tecnologico, sociale ed economico conobbe un'ulteriore accelerazione, aprendo la via a ulteriori cambiamenti nelle coscienze, che si diffondevano ancora più rapidamente grazie alle tecnologie elettroniche della comunicazione. Ma un fattore fondamentale di questi grandi cambiamenti è stato il costante risveglio di grandi masse dalla trance del dominante, risveglio ulteriormente accelerato dalla comparsa delle scienze sociali e in particolare dalla graduale accettazione della psicologia moderna sia come nuova disciplina scientifica sia come una nuova terapia. Questo particolare cambiamento, infatti, produsse un'intuizione che ora diamo per scontata, la necessità di comprendere gli eventi dolorosi vissuti nell'infanzia, specie all'interno della psicodinamica familiare, per comprendere e riuscire a cambiare il modo di pensare, di sentire e di agire. Chiaramente al cambiamento personale, familiare e sociale non basta la consapevolezza di quanto ci è accaduto da bambini, ma come abbiamo visto, la crescente consapevolezza del lato sepolto dell'infanzia è stata una parte importante della moderna rivoluzione delle coscienze. Aumentava il numero delle persone che cominciavano a percepire con maggiore chiarezza quanto era stato fatto loro nell'infanzia e quelle persone hanno tentato di lasciarsi alle spalle le istruzioni ricevute, di ricorrere cioè all'abuso e alla violenza con i loro figli. Ciò ha a sua volta contribuito a una maggiore consapevolezza o a un'attenuazione della rimozione, del predominio e della brutalità nella sfera privata come nella sfera pubblica, fatto di particolare rilevanza con questo risveglio dall'accettazione supina come in trance di un modo cronicamente doloroso di strutturare i rapporti umani, è emersa nelle coscienze l'esistenza di alternative possibili alla sofferenza cronica provocata dalle gerarchie della dominazione. Recentissimamente, mentre questa rivoluzione delle coscienze comincia a passare alla seconda fase, i cambiamenti nelle credenze, nei comportamenti e nelle istituzioni sono stati ulteriormente accelerati dall'opera di varie organizzazioni a favore dei diritti delle donne e dei bambini e dalla nuova attenzione prestata dai mass media e dalla legge, a diffusi modelli di violenza sessuale contro le donne e i bambini. Anche in questo caso i cambiamenti sono stati accelerati dal diffondersi della terapia familiare e dai movimenti autonomi che smascherano i guasti prodotti dalla famiglia disfunzionale basata sul controllo. E poi, anche di fronte a una massiccia resistenza e a un violento contrattacco, sono ulteriormente accelerati dal rifiuto posto dagli uomini e dalle donne ai rapporti di genere e ai ruoli stereotipati. Tuttavia, proprio mentre i cambiamenti tecnologici ed economici continuano a destabilizzare istituzioni, credenze e comportamenti un tempo radicati e si intensifica la sfida a qualsiasi forma di violenza o di abuso sociale o sessuale che sia, il rapido cambiamento tecnologico ed economico genera anche uno stress enorme. Infatti il cambiamento tecnologico produce una dislocazione a livello economico e sociale e inoltre, siccome le élite dominanti tentano disperatamente di mantenere e persino di rafforzare la loro presa, le disparità tra ricchi e poveri globalmente aumentano, provocando insicurezze e privazioni ancora maggiori. E specie tra coloro che hanno visto i genitori deviare la loro frustrazione e la rabbia contro chi non ha il potere di difendersi, fin troppo spesso ciò ha scatenato la violenza e la caccia al capro espiatorio nella sfera privata e pubblica. Così, proprio mentre aumentano le persone che rifiutano la violenza e l'abuso insiti nell'autoritarismo, nel razzismo, nel sessismo, nell'antisemitismo e in altre forme di predominio politico ed economico, assistiamo a riaccendersi di vecchi odi e vecchie paure, sia nelle società cosiddette sviluppate sia in quelle cosiddette in via di sviluppo. Per esempio, episodi di collera e violenza contro le minoranze e i poveri, specie contro le donne povere negli Stati Uniti. La brutale violenza interetnica che ha portato serbi, bosniaci e croati sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo, la carneficina intertribale in Somalia e in Ruanda, il terrorismo sanguinario dei fondamentalisti religiosi in Oriente e in Occidente. Similmente, proprio mentre i mass media finalmente portano allo scoperto gli orrori, quali le percosse di cui sono vittime mogli e bambini e casi di violenza sessuale sui minori, si verificano le tragiche storie di giovanissime madri che inconsciamente e talvolta con violenza agiscono il loro smarrimento e la loro angoscia sui figlioletti e di ragazzini abbandonati e trascurati che si riuniscono in famiglie di bande in cui con violenza agiscono la loro sofferenza deviandola contro i pari e contro la società in generale. Dunque, da una parte, mentre entriamo in una fase sempre più accelerata della rivoluzione delle coscienze, intere masse si rifiutano di accettare ancora relazioni violente e abusive, semplicemente perché così vanno le cose. e sempre più si concentrano sul rifiuto di rapporti intimi violenti e abusivi, come dimostrano libri assai popolari come quelli di John Bradshaw e Annie Wilson Schaeff, e talk show come quelli di Oprah Winfrey, in cui gli ospiti parlano apertamente di quanto era un tempo considerato troppo vergognoso per essere ammesso persino di fronte a se stessi. Ma dall'altra parte, più si accelera il cambiamento tecnologico, sociale ed economico, più le elite dominanti cercano di conservare e persino accrescere il loro potere, e più si danno conflitti, privazioni, insicurezza e stress. E si intensifica la ricerca di un capro espiatorio, aumenta l'istigazione a deviare la rabbia e la paura sui membri di gruppi tradizionalmente diseredati, sia nella sfera pubblica sia nella sfera privata, specie in coloro che per via del loro condizionamento culturale trovano estremamente difficile contemplare rapporti diversi da quelli dominante e dominato. Riassumendo, se la spinta alla partnership ha conosciuto un'accelerazione, la stessa cosa può darsi della resistenza della dominanza. E una delle manifestazioni più devastanti di un sistema intrinsecamente violento e abusivo che cerca di imporre nuovamente la sua presa è stata l'escalation della violenza nei rapporti intimi, come crudelmente dimostra la recente piena di delitti perpetrati da uomini che hanno ucciso non soltanto le mogli, ma anche i figli, e poi si sono magari suicidati quando le do donne si sono rifiutate di sopportare ulteriormente dei rapporti abusivi. Un'altra manifestazione ancora della forte resistenza opposta alla spinta della partnership è stata la campagna intensiva per un ritorno ai tradizionali valori familiari, il nuovo nome in codice che sta per famiglia autoritaria, dominata dal maschio, patriarcale, decisa a insegnare ai bambini e alle bambine a obbedire agli ordini superiori, anche se ingiusti o a tutto ispirati fuorché all'amore. Questa campagna è stata scatenata prevalentemente dai fondamentalisti e da altri gruppi religiosi, ai quali i capi tuttora vanno predicando che la superiorità dell'uomo sulla donna è un decreto divino. Così a questa gente, che a sua volta lo viene a dire a noi, viene assicurato che un ritorno ai tradizionali rapporti e ruoli di genere in una famiglia in cui il capo è l'uomo è la cura giusta per tutti i mali della società, sebbene gli studi dimostrino che la presenza di due genitori è meno importante per lo sviluppo di un bambino, di fattori quali lo stress economico, il livello di istruzione dei genitori, la pressione dei coetanei e l'ambiente più allargato in cui i bambini crescono, e dimostrino pure che, contrariamente agli stereotipi, le madri che lavorano fuori casa non sono per questo meno coinvolte nella vita dei figli. Peraltro, la campagna della destra religiosa per ristabilire famiglie basate sul predominio è veramente soltanto la punta dell'iceberg. Come vedremo, molte altre sono le manifestazioni, altrettanto insidiose ma molto meno visibili, della resistenza al cambiamento opposta da un sistema millenario di organizzazione sociale e ideologica, che per conservarsi ha bisogno che il sesso e le donne siano rigorosamente sotto controllo. Alcune di queste manifestazioni, come le suggestioni ipnotiche subliminali, esercitano una forte influenza su tutti noi, non soltanto a livello psicologico, ma anche sulla nostra sessualità.